premere R. Esattamente. Allora, risalite. No, aspetta, prima vi chiedo. State a cavallo, divisi come eravate la prima volta, cioè 4 cavalli, 5 persone. I due più skinny di voi sono sullo stesso cavallo, se non sbaglio erano Adone e Elf, giusto? Sì. O Miff e Lieto. No, Mister Adone. All'ultimo Mister era giro con erano Miff e Nibel. Adone. No, l'ultimo Sì. giro era Romy con Nibel. Quindi c'era con Nibel sul Sì, cavallo grosso. avevano sul cavallo grande. Ok, quindi siete divisi. Un cavallo Miff e Nibel? Adone. No, oh, sei sullo stesso cavallo di Nibel. Sì, tutti gli altri hanno i cavalli propri Pico. Ok, ci sta. loro. Bene. Erano, No, perché erano quattro cavalli e si era aggiunta Cici, quindi Esattamente. Perfetto. Ci sono, ci sono. Stavo un sempre attimo. d'accordo. Quindi state ripercorrendo il fiume. Come forse vi ricorderete, c'è un fiume. Ce ne sono due veramente, però voi ne avete visto uno. E risalendo questo fiume, se volete interagire fra di voi, parlare fra di voi bene, altrimenti io vado avanti con la trama, ditemi voi. Biff, E Sara, ok, niente. Io vabbè. No. come fosse a casa tua. Allora, Biff tipo si sporge un po' verso Adone, non come siamo messi, cioè io e Nibel siamo davanti, voi siete dietro, qualcuno, viaggiamo due a due, insomma. Dite voi. Se la strada non è troppo larga, probabilmente non siamo neanche in fila, siamo tutti quattro, uno di fianco all'altro. Se la strada permette, sì. Facciamo che per convenienza Siete c'è sulla Adone a strada, fianco a noi. siete nello sterrato, cioè siete nei campi aperti. Infatti. Cioè, tipo strada di campagna stretta dove ci passa un cavallo e mezzo da solo, oppure No, possiamo proprio non c'è una strada. Avete tagliato sui prati coltivati per un pezzo e poi inizia la boscaglia. Nella boscaglia realisticamente andrete in fila indiana per il semplice motivo che non c'è lo spazio costante fra gli alberi per potersi muovere tutti insieme. Insomma, cioè, vedi che Mip si gira verso di te, Adone, e fa: posso farti una domanda? Adone ti guarda, dice: certo, prego. Perché l'hai lasciato lieto? Insomma, una delle Mia. magie. Mi aspettavo Adone. ti lanciassi. Vai, vai. Adone si gira verso Lieto, lo guarda, poi si gira verso Biff e dice: La schifa faceva. bah, non avevo voglia in quel momento di sprecare energie per una cosa simile. Poi, dopo tutto, non credo che. Vedi che Adore sta un attimo pensando a come dire le sue parole. Poi ti guarda con un sorriso e dice: se gli ho lasciato fare ciò, vuol dire che per me non è un problema. Spero Quando dici ti basti questo, come mi tipo. tipo ho gli occhi, fa. Ok. Le anime hanno un sapore? Faceva proprio schifo questa. Era cianciugosa. Quelle Quali sono quelle che ti piacciono di più? degli dèi. Ok, beh, allora potete dividervele in base ai vostri Io gusti, non suppongo. sento il sapore delle anime, è solo una cosa che fa Lieto perché decide di, ci penso un attimo, affondare i denti, immagino. Possibile. Poi no, è il palato fine. Adore, mangia me. No. Beh, in ogni Non ho caso, bisogno di meno fare. litigate. Scusami, vai, Sirio. Non ho bisogno di commettere atti così croenti come Arva o come Dieto. Sta mentendo. Beh, alla fine se... se Arva e Lieto prediligono le anime degli dei e tu Adone prediligi quelle delle persone, in futuro non penso si porrà più il problema di battibecchi su cosa dovete mangiare. Esatto, anche perché se ci saranno è un grande problema per tutti noi. A meno che non esista qualcosa là fuori che fa coincidere le due cose. Non mi sorprenderebbe se dovesse esistere. Tipo noi nel futuro. È vero, effettivamente, come percepite l'anima dell'altro a vicenda? Avete mai pensato di mangiarvi? Posso, Adone? Adone è contrariato e confuso. Un morsetto è simbolico, non ho bisogno se di... Se dovesse... Adone ti lancia un'occhiataccia. Eh? Adone ti lancia un'occhiataccia. Vabbè, non volevo... Cioè, volevo assaggiare, non è che... Te ne davo un pezzo. Non fraintendo le mie parole, non è... Non vuol dire che se questa volta non è stato un problema, non lo è nel futuro. Lo sarà nel futuro o non lo è così. È una leccata da Adone mentre dorme. Madonna. Se doveste annusarvi a vicenda o qualsiasi cosa utilizzate per percepire le anime degli altri, cosa percepite? Anime di dei o anime di persone o qualcosa di diverso? Adone si passa una mano sulla faccia e dice Nibel, non funziona così, però poi si gira verso Lieto e prova a percepire l'anima di Lieto a questo punto. Un'anima dentro un corpo è difficile da percepire e interagirvi. È come... Okay. Ora, usiamo la metafora del coniglio, perché le tue anime tu le vedi come conigli. È come un coniglio dentro una scatola. Riesci a sentire che amore fa, ma non riesci a capire come è fatto sto coniglio. Il coniglio di Schrödinger. Finché non apre la scatola. Adone dice... È difficile percepire così a crudo un'anima. Bisogna utilizzare delle magie come Mif quando usa Horoscope, o probabilmente ci sono creature, persone che hanno sviluppato una sensibilità tale. Non riesco a percepire più di tanto da parte di Dieto. Magari il contrario, sì. Prova ad annusarlo tu allora, vediamo come... Dieto si avvicina e tipo... Non posso chiaramente dirti che sapore abbia, ma tu hai un feeling. Come la sensazione se il piatto che stai per mangiare sia buono o meno. Mm-hmm. E questo è un piatto succoso. Però se sia un primo, un secondo, un dessert... Non ho sentito niente, dice Lieto. Biff che alza un sopracciglio e fa... Sei veramente fallimentare come avatar del tempo, comunque. Mi hai tolto le parole della bocca, Biff. Topai, non è importante la persona quanto il dio che ti sceglie. Adone ti alza un sopracciglio e fa: se dobbiamo combattere su questo terreno, Arva ha scelto me molto prima di te. Visto che stiamo controllando, noi invece che odore abbiamo nelle nostre anime? Vabbè. No. Assaggio. No, no, no, no. No, no, io ti tiro un pugno, figurati. Le loro anime, benché meno frollate, sono più simili a quella del Magister. No, neanche loro sanno di niente. Va bene. Almeno ho avuto la conferma che sono ancora una persona normale. Ciao. Non siete rimasti anche voi perplessi dal discorso del Magister? Stai pensando alle sue ultime parole? Già. Come ci ha descritto? Sì. Non ho idea di cosa volesse intendere. Non mi sembrava esattamente una persona in bolla, quindi non gli darei troppo peso alle parole che ha detto quest'uomo. Al contrario, devo dire, in realtà mi sembrava troppo razionale per la sua età. Beh, chiaramente non era una persona normale. Arrivare... Ti avevano chiesto di non ammazzare, ci stava cercando di ucciderci, mi pare. Ci aveva intrappolato, poi quello che sarebbe successo. Se Devin non gli avesse sparato, noi non saremmo qui a discutere. Non ci avrebbe ucciso, statene certi. Se voleva se non ucciderci... l'avrebbe già fatto prima. Sì, poteva uccidere me innumerevoli volte e anche quando siamo stati bloccati poteva fare come aveva fatto Devin, mettermi un buco in testa e finirla lì. Ma l'impero preferisce tenere le cose sotto controllo piuttosto che ucciderle. Voleva mandare un messaggio, una dimostrazione di forza. Beh, non c'è riuscito, no. In quel caso probabilmente voleva in qualche modo, poteva stare aspettando qualcosa o qualcuno. Magari ci avrebbe la faccia di pianto. Ho appena realizzato una cosa. Dici? Avete lasciato il proiettile lì. Dell'arma di Devin, sì. Nel cadavere. Ah! Sì. Esatto! No! Once again era il proiettile dell'arma di un altro tipo. Che non era, non si era tipo bloccato sulla no, maschera? Aveva fatto il buco sulla maschera, ma era rimasto fermo. Quindi probabilmente è caduto per terra. Vabbè, sarà un problema. Ah, aspetta. Devo vedere se era un proiettile normale. Sì. Ah, in quel senso, no, io sto pensando più a incastrare noi. Sì, allora sì, troviamo effettivamente. Niente, era una mia considerazione. E ora è una vostra considerazione, visto che ci state pensando. Sì. Che è terribile da parte tua, però, I guess. Thanks. E ve lo dico perché questa azione sicuramente non avrà conseguenze. Non avrà conseguenze, sapevo sì che l'avevo detto. Se non mi vedete in cam è perché sto sistemando una cosa e arrivo. Non ti preoccupare. Risalite il corso del fiume Tomi, costeggiandolo sulla sponda orientale e zigzagando fra gli alberi che vi crescono vicini. Querce dorate, mormora Cici che da un po' che non vi sta ascoltando in realtà, però è rimasta in silenzio a fissare il vuoto per tutti i cazzi che ha avuto in così poco tempo. Si riconoscono perché hanno la parte inferiore delle foglie gialla. Mia mamma ne aveva piantato uno nel giardino di casa nostra ad Oclica. Chissà come sta. In che quartiere viveva la tua mamma ad Oclica? Viveva nei quartieri popolari a sud. Sei pratico di Oclica? Kinda. Non tantissimo, però ci stavo studiando a Oclica. Sai, venivo dalla Zenitai. Oh, ok. E vivevi ad Oclica? Sì. Non sono nato ad Oclica, ma vivevo ad Oclica. You know, fare avanti e indietro da Sciocco, not exactly. Il pendolare. Ha senso. E... dicevo... Non mi ricordo se... Meta, non mi ricordo in che quartiere stava lieto. Sì, Meta, non mi ricordo in che quartiere stava... Come cazzo si chiama il quartiere che ho in mente? Quindi siamo almeno in due. In genere gli studenti stanno nel quartiere dell'università, che è il quartiere universitario, non credo abbia un nome. E non trovo l'immagine di Oclica, quindi ahimè. I quartieri sud erano quelli dove stava mi sono già dimenticato il nome del personaggio in realtà. Ivan. Sì, erano i quartieri poveri. Sì. Stava sì. In quella zona lì. Ok. Entro la prossima volta te li ricerco. Ora non saprei dove cazzo li ho salvati. Non ti preoccupare. Va bene, comunque sì, stavate in quartieri praticamente dai lati opposti della città, tant'è che il tuo era un quartiere, non dico ricco perché alla fine era il quartiere universitario, quindi era proprio una roba separata, artificiale, mentre il suo era un quartiere povero. La Milano bene. La bicocca. Dopo avervi segnalato le querce, il paesaggio diventa effettivamente strano. Nonostante sia tarda mattinata, la presenza del colossale mostro di fronte al sole rende il tutto spento e grigio, per cui quegli alberi colorati risaltano ancora di più. Sulla cima del monte si vedono i banchi di nebbia, tanto che non vedete la cima vera e propria, avete solo una nuvola. E non è una montagna altissima, quindi c'è un altro blocco di strada e poi c'è una nuvola che copre la cima. Il fiume scorre tranquillo, ogni tanto solcato da qualche piccolo pesce. I rumori del bosco che vi circonda sono catartici, il canto degli uccelli si fa più ovattato e lontano con l'arrivo dell'autunno. Ma un impervio sparviero svetta sulla quercia più alta della zona. Cosa cazzo mi sono tirato quando ho scritto questa roba? Osservando gli estranei che marciano nel suo territorio. Poco oltre. Inizia la rupe. Ok, mattoni. E con essa la nebbia. Ma avete ancora un bel pezzo di strada da fare. Io ho una domanda, Master. Nel mentre che stiamo facendo questa strada, mi può provare lo scettro? Sì. Lo scettro, come ti avevo accennato, a meno che tu non voglia fare delle robe strane, di per sé non casta nessuna magia. Però io posso castare magie incanalandole attraverso lo scettro. Puoi castare una magia mentre tieni lo scettro in mano. Voglio vedere che succede, cioè faccio horoscope. Su chi? Su Lieto. Sì, no, vaffanculo, su Nibel, lo faccio su Nibel. Voglio farlo su Nibel, ok. Ok, lo vuoi. Allora, fammi aprire le schede perché ho bisogno di vedere le schede per dirti sta roba. Poi io mi segno. Il cast di horoscope dura un minuto e questa cosa rimane pressoché invariata. Quando lo lanci, senti che c'è una specie di riverbero dalla campana, impercettibile, lo senti solo perché ce l'hai in mano. E non ti è chiarissimo quale sia l'effetto di questo riverbero, perché la magia viene castata normalmente, quindi vedi effettivamente la lista delle magie che conosce Nibel. E dammi un attimo. È la grande lista di magie. Lista di... No, vedi che ha overpower e un'altra spell punto interrogativo, perché deve ancora prenderla. Pipo popo pipo pop. Sì, l'avevo messa come placeholder qualche settimana fa. Bellissimo. Mi immagino Miff che vede la lista ed è overpower che conosce e poi c'è Pipo pipo papo pipo pa, che va avanti. Tipo... che, vedete che cioè, proprio... aspetta. Ah vai, scusa. Horoscope ha due effetti aggiuntivi. Che puoi scegliere di attivare. Il primo è fornire favori al bersaglio. Il secondo è fargli cambiare una spell in suo possesso. Aspetta, qual era il favore? I favori sono dei... spendi un favore per spostare un punto da una statistica a un'altra. Ok, prima di attivarlo magari dico a Nibel. Nibel, vuoi... Sì. Ti sto castando horoscope, come magari avrei sentito, per provare lo scettro. Cazzo. Vuoi magari che cambiare una spell? Cambiare qualcosa? Vuoi che ti faccia più forte? Non lo so, in qualcosa a cui manchi? No, con gli incantesimi sono a posto per ora. Per il resto, cioè, puoi cambiare come funziona il corpo di una persona? Sì, kinda. Le tue abilità, le tue attitudini, mettiamola così. Ok. Qual è il contrappeso di questa cosa? Che perdi un po' da un'altra parte. Tutto qui? Tu non subisci niente? No. Così facile? No, sì, spendo mana. Puoi farlo una volta al giorno. Esatto. Uh, Sai che tolgo uno ad agilità e metto uno a dialettica? Dai. Non è che, cioè, togli i punti statistica in basso a sinistra, non quelli in alto. Basso, sì. Quindi quelli che ho 60 punti, sì, dici? Lì ce li hai quasi perfetti, sì, sì. Quindi cambiarli a te non serve a niente, ti dico la verità. I favori, ah, okay, li tieni da parte, cioè li puoi spendere in un secondo momento. Cioè non posso allora... togliere 7 punti da verde e metti la giallo? Puoi farlo, ma lei te ne dà solo 4. Cioè ti dà 4 okay, spostamenti. No, ok, allora niente. Allora facciamo un favore. Sì, come funzionano? Funziona che piuttosto che andare da qualcuno per farti cambiare le... gli incantesimi che conosci, posso farlo direttamente io. Ok, magari in futuro, quando conosco un po' di più la magia naturale, potrebbe essere utile. Certo. Sicuramente gli altri potrebbero beneficiarne di più di questa cosa. La vostra conoscenza magica è sicuramente superiore alla mia, senza ombra di dubbio. Ho scelto te, anche perché Adone so cos'è che mi aspetto, lieto più o meno, mancavi tu da... Sì, sì. Di dire... Ti ringrazio, ma per ora penso che sto ancora crescendo. Il riverbero della campana, mi posso concentrare su sta cosa oppure no? Sì, e realizzi che okay, tu fino a ieri non eri in grado di far cambiare le spelle alla gente. È vero! Ha messo la quantità di tempo sì, che non gli è vero! Dato. Ma ti giuro, io ci ho pensato a sta cosa, ho detto, ma io non la leggo... Cioè non l'ho mai fatta con lo scopo di tipo, magari si è ricordato di un effetto in più. No, non è vero. È che serve una quantità di maestria che tu non hai, ma con quella cosa lì sembra che te la conceda. Mi aumenta di uno. Ehm... Hai capito qualcosa? Mi fa, penso che questo scettro potenzi in qualche maniera la mia abilità nel fare le spell. Ci sono più, com'è che le chiamate voi, scuole di magia? Sì, allora io adesso ho fatto una teurgia. E ti dispiace se lo uso un attimo? Tipo, mi fai se la tiene stretta. Te lo do, giuro. Solo per fare una scuola diversa. Conosco 3 scuole di magia, Lieto. A meno che non conosci qualcuna che non conosco io, non te lo do. Vabbè, non credo che sia una buona idea mettersi a consumare il vostro potere magico. Poi magari posso provare io, visto che non uso... Lieto, non uso la magia. Consumo mi affatico semplicemente. Sei sicuro? Sì, non credo che ci siano problemi. Sara, puoi toglierti un punto, cioè un mana per aver usato horoscope? Me lo sono già fatto. E guadagni uno di esperienza. Ah, giusto. A teurgia. Lieto. Cioè, se vuoi provare Lieto, fai pure. Io sono una bella... Ti dà lo scettro. Vedi che ti guarda. La sta lieto manzia. Prego. E... Future Glimpse. Andiamo a prendere Future Glimpse. So cosa fa di base Future Glimpse. Ed è una di quelle strane. Come di quelle strane? È una di quelle che ho preso solamente per essere... Sì, sì, sì, in... però c'è in Pentagon Spread. Sì, ci sono tutte, vero? Tranne cioè, quelle future... extra che ti ho mandato di recente. Ah, vabbè, sì, ma erano... Sì. Però sì. Erano niente. Vabbè. Allora, ce n'è una cercare. Quando usi Future Glimpse, mentre hai lo scettro in mano, il cambiamento è che puoi usarla come reazione. Ok. E ti sembra basta. Ok. Lieto ti ridà tipo lo scettro. È proprio, non serve neanche che la casti, è proprio una percezione più che altro. tieni. Cioè, palla di fuoco immagino diventi interessante, ma è una palla di fuoco. Aumenta comunque in ogni caso, cioè, quindi questo coso... Sì, questa è un'altra teologia, quindi però... immagino funzioni con tutto. Può essere. Sono curiosa di vedere con le altre come si comporta. Posso provare con overpower? Ti passo lo scettro davanti. È naturale. Lo scettro e cast overpower. Quando lo fai... Giga Nibel? Non è tanto bello, credo, ma mi sa che aumenta la durata. Maestria naturale 2, mentre l'aura è attiva, aumenta il tuo fisico e la tua mente di 1 per ogni 2 punti di competenza. Non hai ancora il necessario per farla, quindi in realtà non cambia nulla. Raga? Pronto? Sì. Sì. Là. Ah, poi. Dici. Perché non mi sento? È stata un'interazione. È successo. Sirio? Sirio. Sirio? Pronto? Hello. Ok, adesso mi sento. Benissimo. Vabbè. E al momento non cambia nulla, overpower, è perfettamente identico. Quindi non scala di competenza, da dei punti in più? Non ne sei certo. Ok, mi sono messo una fatica, mi prendo una exp, passo a 5. Per qualche minuto avrai overpower attivo. Sì, gli ripasso il bastone. Forse non sono abbastanza competente con la magia per poter avere degli effetti. Mi sa che funziona meglio su maghi più esperti o qualcosa del genere. Lui era un mago, effettivamente. A quel punto Adone porge la mano verso Biff. Così. Biff ti guarda. Biff ti guarda, tipo... La donna è un attimo che dice: credo di essere la persona più esperta in quanto a magia del gruppo. O almeno quella che sicuramente ha studiato di più. Posso provare? Biff che alza un sopracciglio e fa forse una scuola di magia. Ok. No, Adore dice: d'accordo, ho fatto diversi studi, diverse lauree, quindi sei laureata, Miff. No. Di la frase cos'è, di Miff. Cos'è una laurea? Esatto. Non credo nell'istruzione tradizionale. Esatto. Letteralmente questo. Ma Miff, non penso che avere un'istruzione istituzionale, mettiamola così, comunque cambi le competenze di una persona. Nel senso, io sono competente nel mio campo, tu sei competente nel tuo. Questo non significa che uno sia migliore dell'altro. Adone alza un sopracciglio, ritira la mano e dice: come preferisci tu. E si tiene lo scettro stretto. Sicura di non voler provare? Qualcuno mi deve persuadere, perché sennò mi sa che non lo fa. Ma non è che direi il cuore di Dio a caso, cioè... No, ma dai, no! Dai, che andare storto, faglielo provare, ma l'abbiamo provato tutti. Può provare anche Cici, volendo. Si spezza in due, tipo lo scelto, ma lo tocca a due. Madonna, veramente. Voglio che si sappia che non ho mai toccato quella cosa. Ok. I guess. Dai Nibel, se... Miff, chiaramente competente nel campo delle armi magiche, non vuole che io tocchi quello scettro, non è un problema. Miff te l'ha già posto. C'era del passive aggressive leggero in quella frase di Adone, tipo. C'era tipo il sopracciglio di dietro, tipo qua a sto punto. Esatto. Dottor Utred. Prima che tu lo prenda, ti guarda e fa: non aspettarti sogni belli nei prossimi giorni. Trattami ancora così, Adone. Continua, no? Io ti sfido a continuare. Sai già come andrà. Insomma. Dottor Utred. Adone ridacchia. Oh. Eccoci qua, dottor Utred. La lanciamo. Abbiamo già troppo. Non serve accumularne anche tra di noi. Fate i bravi. Lì tu hai già provato a castare tutto il glint, giusto? Sì. Sì. Avrebbe senso provare a castare Summon Familiar, dovrei vedere se riesco a portarlo tipo a livello successivo. Vogliamo provare? Vai, proviamo a castare Summon Familiar. Sono molto felice che tu l'abbia fatto. Perfetto, sapevo. Dammi 4 secondi che non ho la, chiaramente la scheda a portata di mano. Mm-hmm. Crei, lo descrivo io perché è il primo cast, dalla prossima volta lo potrai personalizzare. Crei un coniglio di queste dimensioni, largo così e lungo 1,5 metri, e non è questa la parte interessante. Il coniglio viene spawnato a fianco al cavallo e va alla velocità del cavallo. La Madonna. È leggermente deforme, nel senso che ha le braccia molto più grosse e muscolose, sembra più un mastino, comunque un animale, un canguro, un animale con i muscoli molto ben visibili sotto la pelliccia, e sembra molto più resistente del coniglio che evochi di solito. Inoltre la sua evocazione viene accompagnata da un don. Okay, che perfetto. Gli altri non hanno fatto. Ok. E quindi Adone deduce che, ok, assodata la teoria che usare questo scettro ti aumenta la maestria nella classe, vabbè, nella scuola di magia, della magia che lanci, ma il fatto che abbia fatto più rumore con la campana, a cosa potrebbe essere dato? Perché questa era una magia naturale, absolute rule, sì vabbè, potrebbe essere una turcia. Ho una domanda. Io ho provato a castare Horoscope e noi quando abbiamo incontrato il magister ha fatto delle spell, abbiamo sentito il dong o no? Vedi, ti ricordi che spell ha fatto? Quella colopo. Sì. Yeah. Magia ontica? Non esiste. No, è come incatato un Maeklon, quella di Cropo. Però sì, sono varianti di magie rispettivamente ontica e naturale. Mm-hmm. Adone si gira verso me e dice, beh, abbiamo la conferma, anche se non ho ancora capito bene a cosa serve la campana. Magari quando ci accamperemo possiamo provare a castare più magie. Quindi vuoi che provo a utilizzare una di quelle magie strane, la magia di Pelsaia? Tipo che si guarda in giro e fa, io non penso che vogliamo causare un tornado qua. Magari lo facciamo da un'altra parte. Magari non lo facciamo, magari lo facciamo soltanto quando ce n'è bisogno. Che dici? Dammi lo scettro. Tipo, ma io glielo porgo, dico, ma bisogna fare degli esperimenti, mi fai così che funziona. Ah sì, è così che ci trovano. Siamo in cima alla montagna, esatto. Le correnti non sono troppo comuni. Sentendo queste cose che loro stanno dicendo, realizza che voleva fare una cosa 2 sessioni fa in realtà. Prende la palla di Umaru, tira fuori il revolver, carica la palla di Umaru e spara l'albero più vicino. Ok, ci tengo a ricordarti un paio di cose. La pistola non spara proiettili, spara energia. Il buco si carica con i manapenni. Esattamente, i manapenni sono dei dischetti, mentre la palla di Umaru è una palla. È quel gioco dei bambini che nel buco a forma di disco non ci entra la palla. Fa piacere che tu l'abbia detto. Ma che sono? E Lieto chiaramente sa smontare la pistola e rimontarla. Ci vorrà un po', e questo, cioè, lo puoi fare mentre sei a cavallo, ovviamente. Yumaru. Ciao, Yumaru. Tenevo a farlo per sempre. Fatto bene. Ti serve un roll fatto 3. God damn. La pistola è stata distrutta con successo. Mi sono appena ricordato di c'è il martello. Allucinante. Sì, ma c'è il martello! Il martello! Mi serve una martellata, questo. Sì, va bene, non c'è problema. Ma ogni volta che la rompo la riporto di... Questa cosa sì. Tutto il tempo del viaggio non mi interessa. Ci saranno due interruzioni prima che tu possa rifarlo. Non mi interessa. Di cosa ti sei ricordato? Dei Bidaman, sta roba qua, sti giocattoli qua, praticamente erano, cioè mettivi la biglia e la sparava da dietro. Fantastico, li avevo. Mi ricordo anch'io. Li avevo. Stupendi. Intanto canto la canzone. That's vabbè. Anyway, sì, ti riparo la pistola con un martello. Metto lì pim pim pim. Aspetta, ho bisogno di una canzone che so benissimo cos'è, ma non so come trovarla su Spotify. Eccola qua, trovata. Datemi un solo. Una canzone seria o è silly? Secondo te? È silly. AF. Davanti a voi, appoggiata a un albero e incurante della vostra presenza, c'è una grossa scimmia. Forse un grosso macaco. Non siete no. Spettici. Oltre alla sua postura eretta e stranamente umana, vi colpisce che in mano abbia un oggetto circolare che sta mordicchiando. Io non ho nulla di circolare per fare questa cosa, quindi... A un esame più attento, quella cosa è chiaramente un manapenny di Esboson, con un polpo disegnato sopra. Ho una domanda prima di tutto. Io ce l'ho ancora evocato il coniglio sì. Enorme. Perfetto. E Nibel c'ha ancora overpower? Sì, per ancora un paio di secondi. Sì, non è che rollato per quanto dovesse durare, sì, però sì. Per il tempo in cui abbiamo parlato penso sia finito ormai. Ehi, quella è una moneta. Cioè, riprende la moneta la scimmia, tipo. La scimmia ma è no! Un albero e tu sei su un cavallo. Quindi siamo più o meno al suo livello? No. Cazzo di albero c'è sto posto di merda? No, è appoggiato a un albero, è tipo messa così. Ed è lontana. Ah, è più in basso di me! Sì, pensavo sì, più in alto. Volete che gli chieda qualcosa? Ma io sto scendo da cavallo e vado a prendere No, rimani qua. Posso fare che io fermo dietro? Che il mio coniglio lo prende per la collotta e lo tira indietro. Cioè, prende dalla collotta e inizia a tirarlo indietro. Coniglio. Ma non, cioè, non è che gli voglio fare del male, lo voglio bloccare. Lieto, stai sentendo un fastidioso pull sul tuo collo. Scaccio il coniglio a manate, tipo. Un po' ferito. La scimmia è alta circa una MIF. Ok, quindi... Quindi è bassa come una parente. È alta per essere una scimmia, bassa per essere un essere umano. E mi abbasso tipo a livello di MIF. Posso avere la moneta? Scusate, Nibel, cosa sta dicendo questo primate? Cosa sta dicendo? Ha detto no, ma soprattutto ha detto: mi piacciono queste cose. Dove le avete prese? Che cosa sono? Ha detto che gli piacciono e vuole sapere dove le prendiamo. E c'è un edificio grande che è pieno di queste cose. Se me lo dai, ti dico dov'è. Beh, è proprio. Sì. È pieno fino in cima. Cioè, c'è una quantità illimitata. Dammeli di più. Non spetta a noi darle le monete. Se vuoi altre monete, devi darmi la moneta. Altrimenti, non vedrai altre monete. La scimmia ti lancia la moneta addosso. Posso collare per prenderla al volo. Rolla un di 10. Se fallisci, prendi un danno. Madonna. Ti amo, Pianice. Pareggio. Non ti prende in faccia, ma non riesce a prendere al volo. Cade per terra. Ok. Raccolgo la moneta. La moneta presenta non solo i segni dei denti della scimmia, ma è come se tutta la cosa che contiene fosse uscita fuori. E la lancio tipo a chi sapeva che poteva Nibel e Mif, spero non sai come la penny per fare della roba. Tutti, anche tu. Sì, cioè Nibel. La tua Nibel. Cosa dovrei farci? E cattato Maclone con la credo che funzioni grande. Soltanto con le ma la penny di Apeira. Non sappiamo la preghiera di Vivego. Posso usarlo per un'altra magia che conosco da molto più tempo, diciamo. Non so bene. Non so bene come funziona. Cioè, la conosco da quando sono nato, credo. Obolo alla vanità, mi pare che si chiami, mi avevano detto in chiesa. Diciamola così. Quando provi a usarla, hai abbastanza presente come funziona questa cosa. E fallisce circa all'inizio di questo processo. Il processo è che tu fai fluire la tua energia magica nella moneta, certo. E la moneta si attiva. Quando cerchi di far fluire l'energia magica nella tua moneta, è come se non ci fosse modo di uscire dalle tue dita. Ah. Quindi non casta Obolo alla vanità. Non fa nulla. E la moneta non si consuma, non succede niente. Guardo la scimmia. Tu mangi quello che c'è dentro le monete? È buono. Ah. Si mangia all'interno delle monete. Me ne dai un'altra? Ah. Per voi che non parlate lo scimmiese. E io gli do indietro quella mezza mangiata, tipo. Pensate sia una buona idea il fatto che mangi le monete? Beh, è come se... Assolutamente no. Avessi l'influenza delle centravi? No, peggio. Mangiando il mana della moneta? Appunto, sì. Penso di saperne qualcosa. È tornata a essere un penny, non un mana penny. Penso di saperne qualcosa di contaminazione di... di questo genere. Rischia di mutare. Dico la scimmia. Sai che non penso che sia una buona idea quella. Non so se vedi il mio corpo, non sono messo particolarmente bene. Non ho enfatizzato abbastanza. Motivo. Che è un macaco alto 1,5 metri eretto. Sì. Ok. Sì. Ho capito. Benissimo. Il macaco di 1,5 metri eretto ti risponde: ma è buona. È un cocainomane. Non ce l'ho più nel mio inventario, vero? Dimmi tu. Non ce l'ho più nel inventario. Cioè 3 mana penny e 5 di questo posto brutto. Sì, no. Volevo dargli la droga. La vera. No, è fatto con i mana penny. Esatto, non c'ho più. Piace. Oddio, Bianni, ma io c'ho ancora un po' di neve. Sì, ancora della neve azzurra. Ok. Oh, Elda. La stai per dare alla scimmia? Assolutamente no, ti pare. Adone dice: ragazzi, visto che non ha nulla di buono da darci, possiamo e fa segno di proseguire. Ito gli ha promesso la penny, se volete do un sonnifero. Io mi giro verso Mif che è dietro di me, tipo la guardo. Le sfere di Rumaru. No, quelle mi servono meno. Non a proposito, ne ha cagata un'altra dall'ultima volta. La vado a segnare a... Okay. Allora non la prendo, la tiro fuori dalla damigiana. Ah, ok, vai. Okay. Per me sì. Tieni. Prova questa, dovrebbe essere buona. Io la lancio. Molto buona. Vediamo degli effetti. La scimmia si gratta al mento. Sentite che la pistola di Lieto fa bzz, e una serie di altri effetti simili sugli oggetti elettronici che avete. Ma soprattutto la scimmia guarda Nibel, che ha capito che è l'unico che la capisce, e gli dice: se me ne date un'altra vi faccio un regalo. Abbiamo altre, vero? Diversa. Diversa. Diversa? No, non ne abbiamo di diversi. Diversa? Sì, abbiamo dei manapenni di altri posti. Un'altra sfera o un altro oggetto magico? Un'altra cosa buona da mangiare. Ok, vuole un altro manapenno, un'altra sfera diversa da quella che abbiamo già. Quindi probabilmente un manapenno di un'altra città. Vabbè, tiro fuori le monete, tipo, ho una moneta di Apeira, io la posso dare, cioè, tieni. Aspetta. No, gli do la moneta da Apeira. E cos'hai in mente? Mi giro verso Nibel, mi avvicino, mi sussurro solo a Nibel. Io volendo avrei qualcosa per dargli piuttosto che la moneta, ma è peggio. È del tipo mana grezzo. Digli che lo voglio. Ha detto che lo vuole, ok, allora ridammi la moneta. Sospiro. Mi frugo nella mia borsa e gli do un'unità di neve azzurra, solo una. Finalmente siamo riusciti a usarla. La scimmia prende la busta, il sacchetto, lo apre. Non è crunchy. No, però sono sicuro che sia molto buona lo stesso. Oh, mamma mia, ragazzi. Questa conta sia come aiutiamo gli sconosciuti che peggioriamo la situazione degli sconosciuti. Esatto. Anche secondo me, aggiornate bellissimo. La card. E ci siamo. La scimmia è molto felice. E estrae apparentemente dal nulla un rosario. Oh mio Dio. E lo porge ad Adone. Ok. Oh, grazie. Da dove se l'è tirato fuori? Ce l'aveva tipo legato da qualche parte, ma non si vedeva perché ha la pelliccia. Ti ringrazio. Preghi per qualcuno? Cosa vuol dire pregare? Vedi quel grosso coso là che ha un rosario come il tuo? No, lui sta pregando in questo momento. Chiedigli da dove viene il meba di rosario. Lui sta pensando molto forte a qualcuno più forte di lui. Gli sta salendo l'effetto della roba che ha appena sniffato, quindi vedi che una sua pupilla è molto dilatata e l'altra è molto piccola. E la scimmia okay, l'abbiamo persa. Nibel, chiedigli dove l'ha preso il rosario. Dove l'hai preso il rosario? L'ho fatto io. Ah, sei molto bravo, devo dire. Come mai ti è venuta questa idea? Avevo delle idee quando ho mangiato le cose buone. Ecco. Ok. Ha detto che gli è venuta l'idea mangiando. Non credo che ti facciano bene. Monete diverse. Voi. No, non abbiamo. No, non abbiamo più. Basta. Capito. E cioè, abbiamo degli altri manapenni. No, voglio robe diverse. Diverse. Conchiglia? Gli allungo la conchiglia e gli faccio vedere. No, ok. Vabbè, Lieto, dagli un po' del tuo sangue, dai. Sangue di Avatar. La scimmia inizia a grattare sull'albero. Adone sta al tono scherzo. Sì, può andarcene, cioè, nel senso, chiaramente... Io mi stacco un fungo, tipo, prova. Ma no! Sì, bello. Mi ficca le mani in viso. Non gli piace, ok. Non ho nient'altro da dargli. Non penso niente che gli c'è la forma di pecorino, ma da no, ok, piace. Allora ciao. E la scimmia si arrampica sull'albero e sparisce nelle rocce. E voi invece sentite ok, non è una scimmia molto simpatica. Abbiamo rovinato la vita di una scimmia. Avete appena drogata, ragazzi. Adone, indovina un po', droga non ce n'è in queste bande, quindi ti divertirà un sacco. Il rosario che hai ottenuto ha solo 4 biglie. Solo 4 biz, non mi viene la parola in italiano. Ah, ok. È scritto nel vostro linguaggio, nel vostro alfabeto. E le lettere sono GE, GE. Gigi Akutami. Le palline sono perfettamente sferiche, sono precise in un modo quasi naturale. E se non fossi certo, mi sono perso che ci sono quattro bits. Sì, quattro biglie. E le sopra hanno la scritta GE, GE. Ok. Le sferette di legno sono precise in una maniera innaturale, sono precisissime. Cioè sembra, se non sapessi che le ha fatte una scimmia, diresti che sono fatte con l'alchimia. E wow. L'altra cosa è che sono legate con un tendine di animale. Damn, secco, spero. Ho detto una cazzata, non c'è scritto GEGE, ci sono scritti quattro geroglifici berber che Cici gentilmente ti traduce come Gege o Gege. Ok. Pardon. Cici, tu conosci per caso questa parola? Cioè, a chi si riferisce? Credo sia la dea della terra berber. Ok. Io cosa vi ha messo lui? Cosa sa delle... Ne sai quanto sì, no? Lieto, tu ne sai qualcosa o puoi chiedere al paparino? È morto. Wow. Ad Arva, intendo. Ah. È pazzo. Lieto piange, tipo. Una lacrima singola. Mio padre. Adonne ti pensa un attimo, poi vedete che dice... Riegel? Esatto, c'è qualcuno qui chiede tu effettivamente. Guarda che non sono un'enciclopedia. Lo so che non lo sai, scusami. Però, già che ci sei, conosci qualcosa di questa dea? No. Ok, grazie Riegel. È più strano io che parlo con gli animali o lui che parla da solo? Parla con i morti. No, a sto punto, tu che parli con gli animali, ti direi, visto che gli animali sono questi, cioè questa me lo parla col solito morto ogni volta, cioè, un animale normale in sta merda, l'isola non è ancora uscito. Dai, abbiamo visto le capre, i cavalli, accarezza il cavallo, no, questo è un animale normale. Beh, il cavallo che abbiamo visto nella stalla non era normale, quindi... Siamo sopra... Piano piano, lo sguardo si muove e arriva l'animale... Esatto. Glauco era molto bravo, si è pure offerto di curarmi, tra l'altro ha detto che poteva farlo. Glauco non aveva in simpatia a me e dietro, perché siamo diversi, siete due stronzi, ovvio, guarda, uno e una due ha parlato quella. Io non porterò la fine a questo mondo e ti... Ma guarda, andiamo avanti. Tipo, sei sicura? Comincio a galoppare in modo che mi allontano e porto via Mif da... No, per me questo è un dirto momento da parte di Nibel. Nibel si è comportato da papà che prende la figlia e la porta via. Fate la bingo card. Adesso la faccio io. Immagino che Lieto voglia provare a ridistruggere la pistola. Sì, continua a farlo, cioè finché non ci fermiamo che c'è una cosa di importante. Mentre siamo a cavallo. Dei momenti di noia. I rolli un di 10. Tieni Lieto, se ti lascio il martello nel caso potesse servirti. Peggio di prima. Blank. E questa cosa ci mette un botto di tempo. Voi altri volete fare qualcosa prima che vi descriva il prossimo evento della serata o... Ah, tra l'altro il bastone magister ce l'avevo io nell'inventario, quindi se qualcuno come lo vuole... Come no, ce l'ho io. No, non l'avevo tenuto io perché c'ho lo zaino. Ah, me lo sono segnato, ok. Sì, vabbè, ma tanto sei dietro di me. Sì, infatti è dietro, esatto. Ok. Parlo da Nibel. Sì, vabbè. Quindi, andiamo in ordine. Adone, vuoi fare qualcosa? Dimmi te cosa. Direi di no. Perfetto. Mif, vuoi fare qualcosa? No, penso stia tranquilla. Si guarda intorno, più che altro, rimane lì. E mi rimane Nibel. Io chiedo do agli altri. Quindi il libro che vi ho fatto vedere, avete trovato qualcosa di interessante lì dentro? C'era ancora Adone. Morgana Laconia 1. Sì. No, ce l'ho io nell'inventario, però. Ah, no, scusami. Non mi ricordo più Pjanic, l'abbiamo analizzato il libro poi. Vedi. Ok. C'ho anche una pergamena con scritto raccolta di magie. Quindi quando ci riposiamo, se volete vederlo di nuovo in caso. E conviene. Adone sarà impegnato a finire quello sui diavoli. Io faccio quello. Va bene. Anche perché letteralmente ho visto il Magister farlo. È una magia che esiste, è una magia che si può fare. Perfetto, allora se possiamo usare qualcosa del genere ci fa comodo. Non sarebbe male. Ok. Il percorso per la cima non è segnato, per cui dovete inventarvi una strada. Detto questo, potete seguire il fiume per un altro pezzo prima che la sua sorgente sparisca nei meandri della montagna. Tuttavia, poco fuori dal percorso che avete in mente, scorgete quello che sembra un rudere di legno e pietra, stranamente conservato considerando che sembra di epoca romana. Che volete fare? Che ore sono? È difficilissimo stimarlo visto che c'è il pescione dietro di voi, ma è dopo mezzogiorno e prima del tramonto. Quindi potrebbe essere qualunque ora dalle 2 alle 5. È il caso magari di accamparsi, far fermare un attimo i cavalli che si riposino, visto che c'è una casa. Non mi pare una cattiva idea, meglio però dare un'occhiata alla casa. Non vorrei incappare in spiacevoli sorprese. Mi scende a questo punto. Vogliamo aspettare Oss? Sì, aspettiamo Oss. Sì. Infatti. Devo un attimo Oss. Vado a prendermi un bicchiere d'acqua allora. Ok, Ica. Eh? Ok. Io devo focus. Sto leggendo una cosa... Cioè, in realtà è strano che non guardi di là, perché tipo, voi adesso siete qua, ma di solito siete sul lato. Sì. Quindi è strana questa cosa. Eccomi. Ho portato il veleno con me, la droga, il veleno. Madonna, costano un casino però. Sì, se crasho sarà perché sto aggiornando i dev desk da video. Ok. Dicelo che non ci vuoi vedere, che non vuoi fare sessione con noi, però beh. E là, come fai? Non mi caga! Non ci si sente in realtà. Sì! Sta scrivendo, tutta la questa vita, ti posso capire. Non ci vuole bene. No. Per te era solo sesso. Col ciclo, quindi male. Anch'io sto col ciclo. Quindi male. Ben sincronizzati tutti quanti. Sì, ma è un caso perché lei è la pillola ed è regolare, il mio è regolare, quindi è... Cioè, è così irregolare che ha fatto il giro ed è diventato regolare con Sara. Che figata. Vabbè, ci sta. Poi vabbè, di solito quando... Non so perché... I vagino muniti, se stanno insieme, si sincronizza. È una questione di ferormoni. Sì, sì. Quella è una bottiglietta d'acqua vecchia di una vita. L'ho presa a Pisa. Che hai preso a Pisa? Infatti, no, ce l'ho anch'io da qualche parte in casa, l'ho riconosciuta. È del gelataio. Se gliela riporti da tipo 1,20 euro di fund. Sì. Adesso. Tu sei preciso. Sei nella fase luteale. Quindi sei triste. Madonna. Depresso. Sei depressa. Scusami, ho avuto un lapsus. Io sono solo l'ideale. Ma Osso è morto, cosa è successo? Osso è morto, sì. Il gatto. Eccolo qua, è crashato. No, sai cosa meglio, Sirio? Ma Martin L'apostrofo utero. Sì, Martin utero. Non l'ho mai sentita questa. No, si sono dati il cambio! Ah, ecco, è tornato Osso. Ecco, okay. Ho fatto spawnare sì, osso sì, nel mio casciare. Allora, molto quick bello. Recap, avete trovato un rudere, Miff ha proposto di accamparvi perché è tardi, non sapete che ore siano, ma è dopo mezzogiorno e prima del crepuscolo. E niente, Miff voleva andare a controllare il rudere che avete trovato. Magari mandiamo avanti la mia famiglia e faccio muovere la creatura. Va bene, mi sembra una buona idea. Vediamo se è sicuro. Voi state a distanza di sicurezza. Devo... Datemi un attimo. Da lontano vedete che non c'è una porta nell'edificio e che i cardini sono estremamente danneggiati, tanto che l'apertura principale è larga e deforme, tipo un cerchio. Quando il gigaconiglio fa un passo in quella direzione, sentite un gorgoglio, forse un ringhio. Adone? Ok, dico... Provo a mandarlo avanti, magari è un animale. Provo a mandare avanti il coniglio. Dall'oscurità dell'edificio emerge un'enorme testa di lupo, con un occhio mancante e una grande cicatrice al suo posto. Ringhia ferocemente con la bocca colma di bava nera. Un attimo dopo, la creatura esce completamente e, alzandosi sulle zampe inferiori, ulula al cielo per intimidire il coniglio e gli dà una zampata. Scorgete chiaramente tre teste uguali e coordinate, collegate ad un unico corpo massiccio, che in piedi supera facilmente i 4 metri. Le zampe sono proporzionate e muscolose, con le loro venature che emergono dal fine strato di pelliccia nera. La bestia termina il suo richiamo e resta sull'attenti, ostruendo completamente la vista all'interno dell'edificio. Fissa il coniglio ringhiando ma restando immobile. Ho due domande. La prima, questa vale come creatura di semofobia? Seconda domanda. Facciamo che il coniglio torna indietro. Per la prima domanda non ti posso rispondere. Per la seconda domanda, il coniglio, che è un costrutto, si fa questa cosa qua. E... sembra una femmina, grazie per averlo chiesto. Il cerbero, evidentemente un cerbero, fissa il coniglio restando in posizione. Ho una domanda. Fai. Cioè, una creatura del genere esiste nella vita vera? E se sì, mi sembra che questa creatura sia enhanced by stuff o è così la creatura magica? Esistono i grifoni e le chimere, quindi... allora, le creature magiche alterate alla magia, come cazzo ti pare, di solito vivono molto lontane dalla città. Questo è particolarmente vicino alla città, a parte quello, sì. Cioè, è un mostro che c'è. È tardi e sembra un buon momento, visto che tipo di bestie ci sono qua, per mandare indietro i cavalli. Lauco di certo non è contento se gli ammazziamo i cavalli. Pensate di poter continuare a piedi da qui? Conosciamo la strada. Sì, non c'è molta altra scelta. Sì, è meglio mandare indietro i cavalli. Ora scendo dal cavallo e mi stropiccio il collo e dico: ti lascio dei fogli sotto la sella. Ti ricordi dove abbiamo riposato? Sì. In città? Ti ricordi la strada per tornare indietro? Allora andate, porta i tuoi amici da quella gentile signora e falli vedere cosa c'hai sulla schiena, e ti darà da mangiare, ti darà da bere, un posto dove dormire, ok? Sì. Il cavallo nitrisce, in modo che sentite tutti, e si incammina facendo cenno agli altri di seguirlo, e gli altri educatamente lo seguono. Okay. Io ho messo i documenti, il biglietto che avevo lasciato anche, che avevo scritto l'altra volta, che poi me l'ho ripreso, io ho tirato sulla sella e l'ho lasciato sotto la sella, sulla schiena. Non lasciate niente di valore, nessun oggetto sui cavalli, ovviamente, vi prendete tutto, anche Cici fa lo stesso. Sì, sì, sì. Cici con me. Ci prendiamo anche Cici. Scusate. Dobbiamo veramente dare fastidio a quella cosa lì? Non necessariamente. In realtà, no. Possiamo andare avanti. Ma magari ha un padrone. Soprattutto Nibel riesce a parlarci. Volevo provarci, infatti. Come mi approccio a un cane tra testa? A una testa alla volta, I guess. Sì, no, nel senso, signore, cane, come mi ha educato a chiamare una peccato. Adone dice, forse una femmina. Beh, okay. Presentati. Adone l'ha dedotto da qualcosa in particolare. Dall'assenza di un fallo di 40 centimetri. Faccio qualche passo in avanti, alzo la mano, chiedo scusa, siamo qua soltanto per andare verso la cima della montagna, stiamo cercando un posto dove riposare, non è nostra intenzione dare fastidio. La creatura, tu senti la voce, gli altri sentono un ringhio, la voce è chiaramente alterata, furiosa, e ti dice soltanto, come se non avesse sentito una parola di quello che hai detto, via di qui. È stata molto precisa sul messaggio. Mi ha semplicemente detto di andarcene via. Pensate sia una buona idea trovarci un altro posto dove stare? O vogliamo insistere? Sarebbe estremamente comodo. Perché ci due muri? Quanti sono? Tre. È un router, vedete? Tre, ok. Tre muri ci sono, uno è un po'... muri. Sarebbe comodo, non è obbligatorio. Quasi sicuramente possiamo sistemare la creatura per di noi. Non se c'è più di qualcuno dentro il router. Se è una femmina magari potrebbe avere una cucciolata, ed è per questo che è così territoriale. Ma noi non siamo il tipo di persona che va a dar fastidio a qualcuno che non ci dà fastidio in primo luogo, vero? Esatto. Più che altro, Mif sente energia magica oltre a al Cerbero. Ma in realtà anche il Cerbero non è che mani energia magica. Beh. Ok. No, niente tutto di palese. Ok. Magari prova... Hai ancora della carne? Sì, ho della carne umana, ma è marcita ormai. Soltanto il rumaro può consumarla. Avevo provato a darla anche a... alla bestia che abbiamo affrontato, ma l'ha rifiutata. Tipo, Mif ti porge una pita e fa... offerta di pace? Pane, è un panificato, è un panificato. Ho capito, sarà un mattone. Il cane mangia tutto, vai. Poi dico... siamo stanchi. Non chiediamo necessariamente che ci lasci rimanere qua. È nostro intento non darti fastidio. Sai dirci in direzione della montagna cosa possiamo aspettarci? La tripla Cerbero questa volta ti risponde con tutte e tre le teste, che quindi ringhiano all'unisono, con un via di qui. Non vuole darmi risposte, quindi proseguiamo. La discussione mi sembra essere andata avanti abbastanza a lungo. Gli posso sparare? No, per favore, Lisa, non... sparare. Non sai se c'è qualcuno. Però tipo, Mif che tipo fa un attimo, non so, fa, gioca con le mani, fa... Io però sono curiosa di sapere cosa c'è dentro quella casa. Ma... Mif... non non ti hanno mai detto, non so se dalle tue parti esiste questo detto, ma oddio, ho un vuoto. Qual era quello del gatto troppo curioso? Tanto va la gatta al lago che ci lascia lo zampino. Benissimo, Adone dirà questa frase e chiederà: sai cosa vuol dire MIF? No, non c'è questo detto dalle nostre parti. Non toccare il naso dove non vedi, che finisce male. Che devo tirare fuori la scheda. Speravo di no. Si sta agitando, forse è il caso che facciamo il giro largo e proseguiamo per andare verso la montagna. Sicuramente troveremo alle basi della montagna gli altri posti dove accamparci. Ancora non è del tutto buio, dovremmo avere ancora un po' di tempo. Mi fa un grande sospiro e fa: peccato. Dico alla Cerbero: ok, ce ne andiamo. Appena effettivamente ve ne andate, due teste rientrano e una rimane sull'attenti. Sì. Faccio un cenno riverenziale con la testa e faccio proprio il giro largo. Cioè posso... Domanda, se siamo un pochino più alti, riusciamo a vedere dentro al rudere? È abbastanza buio che l'interno è difficile da comprendere. C'è del movimento sicuramente, però non riuscite a capire cosa sia. Sì, probabilmente stava difendendo una cucciolata. Oh, sarebbe stato carino un piccolo cerbero. Sì, immagino, però a che costo poterlo vedere? La pelliccia del cerbero. Madonna, non ho sentito. La pelliccia del cerbero, a che costo? Sì. Materiali, sì, cose. Vabbè, dai, insomma, non mi sarei sentita a mio agio se questa mamma avesse avuto dei cuccioli. Se vuoi carezzare qualcosa, Miff, il coniglio si avvicina e sente lì di fianco alle tue gambe. Preferivo quando era più piccolo, più sollevabile. Beh, Adone si avvicina e prende in braccio il coniglio e dice: che è di 1,50 Sì, infatti c'è più coniglio che Adone nel caso. Cioè, mi fa che ti guarda e fa: letteralmente più grande di te. È più grande di me quel coso. Quel cavalcar. Non abbiamo più cavalli. Vuoi evocare altri conigli? Siamo come... Ok, peccato. No, potevo fare il trucchetto che prendendo un'altra volta potevo staccare i famigli. Non però era diverso. Un'altra volta. Sì. Comunque, cioè, se prendi la spada più volte puoi. Vabbè. Ok. Proseguiamo. Allora, no, purtroppo non posso. Io tengo d'occhio in giro se vedo grotte, alberi comodi per poter essere scalati, per poter riposare, non lo so, nidi, robe del genere, che non siano di cerbero, altri ruderi, qualcosa del genere, dove poterci riposare eventualmente. Proseguite oltre al bosco alla ricerca di queste cose, sulle rocce ripide. Troppo ripide perché i cavalli potessero accompagnarvi anyway. Cioè, da questo punto in poi è quasi una scalata più che una camminata. Tant'è che anche gli alberi si fanno molto più radi finché poi non ce ne sono proprio più. E è roccia viva. All'interno di... cioè, su questa roccia viva per il momento non vedete insenature, ma solo un lungo piano unico. Il terreno è abbastanza compatto, quindi non è sdrucciolevole, non c'è il rischio di crollare. Inoltre vi accompagna adesso la nebbia, che permea i vostri polmoni completamente, ma la base della montagna riuscite ancora a vedere nitidamente. Non potete certo correre in questa situazione, ma per fortuna sembra che nessuno vi stia alle spalle. I passi sulla pietra fanno... un suono ovattato e la completa assenza di vegetazione o vita di qualunque genere dà un aspetto ultraterreno all'area che vi circonda. Anche la temperatura sembra essere scesa drasticamente, tanto che Cici ha i brividi. Dopo qualche minuto di marcia alla ricerca difficoltosa di un punto dove fermarvi, continuando a seguire per quanto possibile le rapide del fiume Tomi in direzione inversa al suo corso, raggiungete un'area dalla chiara impronta antropica. Scavata nella roccia c'è un'area rotonda, al centro della quale giace una lastra di pietra scura infilata nel terreno. Potete guardare l'immagine dell'evento, dovrebbe essere simile a qualcosa che avete scritto, un pochino più ieri, perché ovviamente nell'immagine non c'era nebbia. Datemi 2 secondi e vi chiedo di controllare tutti Telegram, perché uno o più di voi potrebbero aver ricevuto delle notizie. Comunque, Bianic, c'è il fiume, c'è il dio dei morti qui, c'è un Cerbero, wink wink. Noi non sappiamo niente di questo. Basta. Beta gaming. Silenzio. Mi vedete che si avvicina pian piano a questa roccia. Avvicinandoti, no, mi interrompo per dirti... darti la descrizione dell'oggetto. Vai. L'oggetto rettangolare, scolpito con grande precisione su una pietra diversa da quelle del posto, lo vedete a occhio nudo, quelle del posto sono grigie, questa qua è nera, o comunque scura, reca un lunghissimo epitaffio, redatto nella lingua dell'impero e in un'altra lingua che vi è meno familiare. L'epitaffio ve lo metto in chat come screenshot, perché sono un figlio di puttana, ecco perché. Sì, infatti, sono per dire tipo... Ci sono dei motivi tecnici per cui mi mando uno screenshot, ed è che l'ho scritto con i tab, e quindi se lo metto come cosa viene una merda. L'ho messo in Fateless, dovreste poterlo vedere tutti. A sinistra è nella lingua dell'impero, a destra è in una lingua meno familiare. Diciamo che Nibel fa fatica a leggerle entrambe, però il senso generale lo coglie anche Nibel. Ok. Qualcuno si sta avvicinando all'epitaffio? Mif, però. Sì, Mif. Ok, ci fermo un attimo. Fai attenzione, credo di riconoscere di cosa è fatta la lapide. Ti guarda e fa... A me non dà una brutta sensazione, onestamente. A me sì, però. Ho già visto in passato quel minerale, dovrebbe essere... Credo che sia attarite. Cos'è? È un minerale che arriva dalla Nadiria e è particolarmente suscettibile alla magia. Cliff ti guarda e tipo assottiglia le labbra, no? Fa... No, non mi dà una brutta sensazione, tipo Mif si avvicina ancora di più. Adore. No, Mif, per favore, ascoltami per una volta. Fai un passo indietro, per favore. Reagisce male alla magia. Infatti, quando durante le trattative, durante il mio lavoro, generalmente non lo facevano maneggiare a nessun praticante di magia, ma soltanto a gente comune. Quindi, se non vogliamo evitare conseguenze, evitiamo di utilizzare magie o robe del genere. Anzi, probabilmente neanche io dovrei avvicinarmi. Voglio solo leggere. Finché è quello, però fai attenzione. Certo, non attivo magie, nulla. Mi si china a leggere e... Vuoi leggere ad alta voce? Vabbè, vai. Leggo tutto? Vai. Mi inizia a leggere ad alta voce, fa... Qui giace il migliore degli uomini, colui che ha donato la magia a chi non l'aveva. Lo scudo che ci ha protetto fino alla fine, la spada che ha scacciato i nemici dei civili. Qui giace il migliore degli uomini, ha dato la sua vita per realizzare il sogno, di un mondo più sano e più sicuro, affrontando gli anarchici e i mostri. Riposa, Bombastus. Bombastus di Usme. Umseda? Non ce la posso fare. Hai vegliato su di noi e noi faremo lo stesso. Seguiremo il tuo esempio, difenderemo il mondo. Sacrificheremo noi stessi per evitare la fine. Riposa, Pseudocel. E vedete Mif che fa Pseudocel. Pseudocelso? Pseudocelso. Unisciti al tuo maestro. Tu che hai sconfitto la morte, ora sarai santo in un mondo senza fede. E chi ti ha ucciso sarà eternamente maledetto. Tipo, Mif che si gira verso di voi e fa. Io... Non è la prima volta che leggo una cosa del genere. E è la tomba di Pseudocelso. Then we going fucking in. Questo è lieto, questo è in character, cioè non è che era. Chi è questo? Donne Sospire dice. È il fondatore delle centrali. Il creatore lo dice. Delle esatto. Centrali. Esatto. Okay. Allora. Prima che ci andiamo dure e crudi. Sappiate che non credo sia morto. C'è scritto. Per ora. No, senso... c'è scritto che ha incarnato la morte. Sì, quindi qualsiasi cosa ci sia di sotto o qualsiasi cosa è chiaramente viva, attiva, pronta a fare quello che preferisce. Mi tocca la lapide. La lapide ti dà una sensazione familiare. Il fatto, proprio la struttura del minerale è simile a quelle, come si chiamavano, quei pilastri nadiri che avevi toccato tanti anni prima. Vedete Mif, no? Che cioè tipo passa le dita sulle incisioni e fa. Non mi dà fastidio questa pietra, l'ho già vista, ci ho già interagito in Nadiria. Cioè, generalmente non succede niente. Reagisce al Tar? Erano imbevute di Tar, cioè le scritte che avevano messo dentro. Però non... insomma, non ha mai fatto nulla, ecco. Magari a voi dà una brutta sensazione, ma a me, insomma, sembra innocua. Anzi, sembra quasi che mi chiami. In che modo ti chiamo? Neutro. Sembra che abbiamo qualcosa in comune, anche se non c'è. Quindi non so cosa avrei in comune con un artefatto nadir, con una pietra nadira. Anche Glauco arriva da qua, dalla Nadiria. Sì. Il fondatore della famiglia di Nadireus è una delle poche persone che ha viaggiato in Nadiria ed è tornato indietro. Se non addirittura sì. L'unica persona. Beh, ho fatto un viaggio con la zia di Naya. E quindi, insomma, sono qui per un motivo. I mostri là erano particolari, però, cioè, è stata un'esperienza interessante. Mi hanno guarito. No, una febbre che non mi passava mai, quindi non ho brutti ricordi, ecco. E cioè, ha la mano appoggiata sulla pietra. Vorrebbe toccare la pietra anche lieto. Tu non hai mai avuto il piacere di Mif di interagire con artefatti nadiri, per cui tu senti semplicemente la sensazione strana, tipo... Una pietra normale sta la pietra pomice come questa pietra sta la pietra normale. È estremamente compatta. Ok. Non mi ricordo nessun materiale che conosco. Non mi viene in mente niente. Forse l'ossidiana, ma è più una roccia. Mentre l'ossidiana okay. È più un vetro. Marmo. Comunque non reagisce. Marmo. Non reagisce male alla magia, nel senso non reagisce bene... Cioè, fa degli effetti indesiderati probabilmente sulla nostra magia, sulla magia nadira, no? Quindi è parzialmente incorretto. Mif sente altro tipo sotto i suoi piedi. Il terreno intorno è terriccio. Questo è strano perché tutta la zona, a parte questo punto qua, era pietra viva. Quindi chiaramente hanno scavato questa zona e l'hanno coperta di terra. Cresce l'erba? No. Dite che... Allora, andrò contro tutte le mie tradizioni familiari, però vogliamo scavare? Tanto... Anche non volendo lo fareste lo stesso. Ragioniamo, dice Cici, che finora è stata scioccata dalla situazione. Tutti è la tomba di Pseudocelso, ma cazzo fanno? Vabbè, guarda. Esatto, tutti studiano a scuola che Pseudocelso è morto in Azmea. Mm. Non siamo in Azmea. Non vi viene il dubbio che forse non è lui? Probabilmente questo eroe di cui hanno parlato, aspetta, va di nuovo alle iscrizioni e fa Bombastus. È il nome di Pseudocelso. E allora sarà Pseudocelso. Cioè, ci sta... Scusami, Cici, onestamente, tutto quello che impariamo è estremamente controllato e falso. Quindi non mi aspetterei che anche la morte di qualcuno di così importante sia redatta. Non vuoi scoprire di più? No. Io sì. Nibel scava. Per favore. E... Cioè, se avete un piccone, lieto si mette a scavare. C'ha la pala. Anche lui. C'ha sì, la no, ma in aggiunta. Cioè, se avete un cucchiaino, lieto sta scavando col cucchiaino per metterla. Ho solo un piccone. Vale la pena... Cioè, penso sia più facile scavare a mano a sto punto. A meno che non becchiamo dalla pietra sotto. Beh, se siamo tutti d'accordo, a me importa poco, non è mia tradizione sotterrare i morti. I miei antenati erano dei becchini, però Dauti è imprigionato, quindi... Io penso sia una pessima idea, ma... ti spiegherò dopo magari, Cici, prima di dormire. Tranquilla, non so neanche io. Solo che io ho smesso di farmi domande molto tempo fa. Forse dovrei anch'io. Cici si butta per ma terra. Ma anche se non fu... No. Appoggiata a una pietra, tipo così. Sta guardando il pescione. Il pescione le schiaccia l'occhio. Scherzo. No. Cazzo, schiaccierebbe l'occhio lentamente perché c'ha l'occhio molto grande, oppure sarebbe sì, lentamente molto altrimenti come farebbe... Com'è un maremoto. Allora, come è messo il cielo a livello di orario? Siete nella mezzo della nebbia, quindi la visibilità è limitata, tuttavia il crepuscolo si vedrebbe perché ci sarebbero i raggi e al momento non c'è ancora, quindi siete comunque prima delle 5. Ok, più presto di quello che pensassi. Sì, avete perso realisticamente la cognizione del tempo, stando qua. Mif e Antone, potete cercare della legna? Sì. Va bene, anch'io. Magari nel mentre io lascio... Io vorrei restare qua. Cioè, tipo, Mif che fa? Io vorrei restare qua mentre... Guardiamo il corpo. È meglio dividerci i lavori una volta che abbiamo finito. No, no, tu vuoi cercare di fare il bingo, Osso. Che stavo facendo, ci stiamo separando. In realtà volevo fare un'altra cosa, però è vero. Il bingo, sì, però sì. Che cosa ci stiamo separando? Tra l'altro, non ci avevo pensato. A passà, non vedete un albero da un po'. Infatti. Ah. Ad ogni dice lì per lo so che vuoi vincere il bingo, però no. Bingo. Forse è meglio rimanere qua, soprattutto considerando quello che stiamo per fare. Va bene. Io rimango da vita sicurezza. Dai, magari però... c'ha un'anima da ciucciare. Io mi avvicino a... Non c'è un'anima mica, questo è il punto. Mi avvicino a Lieto e gli sussurro. Puoi usare... Genesi. Ma il caso vicino alla pietra che abbiamo appena detto che salta in aria con la magia. Una cosa non avevi fatto. Tusce. Vabbè, comincio a mettere le mani. Il coniglio si mette a scavare. Bello. Comincio a mettere le mani nella terra. Bello. È un coniglio. Tutti tre insieme state commettendo un crimine contro una di quelle divinità che tanto non contano più un cazzo. Quindi nessuno è... No, Adone non... Adone è a distanza. Ha mandato il coniglio. È bello che Adone è tipo Ponzio Pilato. No, ma io me le lavo le mani, quindi sono assolutamente a posto di questa cosa. Esattamente. Non ho fatto niente di sbagliato. Dopo qualche ignavo minuto, lo scheletro era sepolto a circa un metro di profondità dalla pietra. La pietra in sé è molto lunga, cioè voi vedete la parte in cima, ma probabilmente proseguiva verso il basso per un paio di metri, tant'è che non vedete la fine della pietra. La pietra non tende a cedere nonostante state scavando intorno, e però in corrispondenza all'epitaffio c'è effettivamente lo scheletro di un uomo e con dei vestiti. E ora provo a farvi una descrizione rapida. La prima cosa che vi colpisce è che numerose delle ossa che riuscite a vedere sono rotte, cioè hanno proprio il segno di una rottura, non come si dice, la formazione che c'è sul cranio, eccetera. Indossa abiti eleganti del secolo scorso e ha una grossa spilla della Zenitai. Insieme a questo scheletro c'è un manapenny sbiadito con una spirale sopra e una mana unit. Non ci credo. Come sono fatte le mana unit? No, non sono così grandi, sono grandi il doppio di un manapenny, quindi sono tipo... Ah, io pensavo fossero tipo, non lo so, anche io pensavo fossero gighe enormi. No, pensavo tipo come si chiama, i container di Monsters & Co. tipo, okay, per raccogliere le trasportano di dentro delle strutture molto grandi per sicurezza, però okay, di base l'oggetto è una sfera di 6 cm di diametro, una cosa del genere, cioè no, piani, ma è stra deluso, pessima campagna. Prendo questa, tipo ho trovato questa, tipo la lancio fuori dal buco. Tipo Pokéball. Mipel la prende e fa... È una mana unit, Mipel. Funziona ancora? Sarà qua da... Quanto tempo ha sto pseudo Celso? 100 anni, circa. Ma infatti, io ho una domanda. A dove dice... Ma non... Quando è morto pseudo Celso, le... Porco Dio, le cattedrali. Le mana unit. Le centrali erano già così in funzione da creare mana unit? A quanto pare sì. No, io me lo domando, Diani. Cioè, sì? Le ha fondate lui le centrali, se è quello che stai chiedendo? No, se sono. Canonicamente sapete tutti, specialmente quelli che vengono dall'impero, che le centrali, la prima è stata fondata, mi pare, nel 39 e lui è morto nel 41. Quindi c'era abbastanza tempo per produrre. Questo mi interessava. Ti non è detto che gli esperimenti non andassero avanti già da prima della creazione della prima centrale, comunque, tra l'altro. Esatto. E il manapenny invece lo prende. Ah, c'è anche un manapenny. C'è un manapenny sbiadito e una mana unit. Manapenny reca una spirale sopra. Sai cos'è la spirale? No, è nuova. Cici non ha idea e credo nessuno di voi. No. Mi è nuovo questo, possiamo dare la scimmia? No, no, magari no, no, magari è di no, un altro. Credo io la porgo a Mif. E io guardo Cici e tipo, vedi, c'avevamo ragione. Che c'è, vuoi vedere se c'è qualcos'altro di interessante, Cici? Prova a scavare anche tu. Va bene così. Sa quanto arriva in profondità sto monolite? Oh, secondo me sarebbe curioso provare a castare qualcosa e vedere cosa succede. Domanda, Lattarite, che era, se non ricordo male, non mi ricorda la pietra dei templi di Arva, no? No. È diverso, ok. Vabbè, continuo a scavare in profondità, cioè ovviamente non sotto lo scheletro, tipo allargo il buco e mi metto a scavare scendendo giù per vedere quanto posso andare in fondo, a vedere quanto arriva la cosa per altri... Quanto hai detto che era un metro? Sì, dopo un metro siete arrivati allo scheletro. Ok, vado di altri 2 metri massimo per vedere quanto arriva in fondo il... Okay. Dopo altri due metri, dopo un metro abbondante, diciamo, arrivi alla fine, arrivi al bordo. Ok. Domanda, perché il secondo? Sì, sì. Back and forth. Sì, sì, non sì. Credo proprio. Nel tuo tentativo di riavvolgere il tempo. Oh no. Mentre Nibel sta scavando e gli altri sono distratti, Lieto cerca di mordere le ossa, ma fa rumore, cerca di riavvolgere il tempo, ma qualcosa va storto e la sua energia magica viene assorbita dal monolite. E notate che la struttura in sé non sembrava avere niente di strano, ma effettivamente ha delle scanalature che formano delle figure geometriche regolari, molto fine, cioè sono spesse tipo 1 millimetro, e non si vedono con tutta la terra e tutta la roba intorno. Ma dopo che lui cerca di usare questa magia, vengono riempite di un fluido giallo. Oh, è come ho visto in Adiria. Era quello vero pianeta. Sì. Ok, perfetto. Oh, welp. Lieto. Si lancia, visto che gli dà una scappellata fortissima. Ego già lì, cioè, tipo, dove esserci tipo sopra a questo punto. Sono lanciato la tomba di... Cosa hai combinato? Hai lanciato una magia? Lanciando il cadavere! Ah, Lieto. Avete una sensazione familiare per Lieto e per Adone, non familiare per tutti gli altri. Oh no. Per gli altri? Gli altri, esatto. Per un istante il mondo intorno a voi si fa interamente nero, ed è come se foste su un disco nero immerso nell'oscurità completa. Siete voi 5 in piedi, siete perfettamente illuminati nonostante non ci siano fonti di luci visibili, e davanti a voi c'è un uomo. Un uomo anziano, in realtà ci avrà l'età di Nibel, diciamo, quindi non è così vecchio, con vestiti della Zenith, cicatrici su tutto il corpo. Cicatrici per voi sono una cosa stranissima, vi ricordo. Porta gli occhiali, che sono un'altra cosa stranissima. E ha uno sguardo vuoto. Certo, scelso, immagino. Lieto, piacere. Guarda tutti uno per uno. Mif che guarda Lieto tipo... Cosa state cercando? La tua anima. Stavo per dire in realtà niente, però... Loro non cercano niente. Sono rimasto in un limbo per un tempo così lungo da aver perso ogni cognizione del mio essere. In che anno siamo? 1622. 80 anni. Se vi dico sorry, Ben... A sua età, eh? No. È confuso. Il mio sacrificio non è stato vano. Quanti anni avete? Cinquantadue. 26. 31. 20, no? Cici è paralizzata e risponde 20. Dio, c'è sempre Cici con noi. Sì. Continua a dimenticarmi, continua a dimenticarmi che c'è Cici. È terribile come cosa. Ho motivo di credere, vedendovi, che la mia idea di salvare il mondo è andata in porto, infine. Tu puoi vedere cosa c'è lì fuori? Lì fuori dove? Fuori da questa bolla. Sai dove sei in questo momento? Siamo nel limbo. Siamo ad Esboson. Fuori dalla bolla c'è un serpente marino gigante che sta pregando Liviagon. E sta pregando che si liberi. Non penso sia centrale. Tanto il serpente gigante il nostro problema, ma tanto la gente che diventa degli automi. Funzionano normalmente, immagino. No. Normalmente. Esatto. Esistono gli avatar nel vostro mondo? Nif tipo fa. Dietro tipo... Sì. Tu saresti un avatar? E non completo, mi pare di capire. Ai miei tempi gli avatar erano creature pericolose. Voi siete dei bambini che giocano con le pistole. Literally. Posso dire, in realtà ne abbiamo incontrati di pericolosi, nel senso l'avatar di Tiro ha cercato di ammazzarci, quindi in realtà le centrali non funzionano come... No. No. Non è l'avatar di Tiro che conosco io. Non è l'avatar di Tiro che ho ingabbiato io. Io ho una domanda. Oclica per... invece. Come? Oclica. Chi c'è ad Oclica? Sadak. Ok, perfetto. Quello lì ha fatto la... si chiama Piega Bronzea. Cioè la gente che si trasforma in questi automi di bronzo. Mantengono l'anima dentro, però soffrono. Sono bloccati come un limbo, a quanto pare, come te. Sadak non è un problema. Ma è letteralmente altro... un grande problema. Non penso che sia il Sadak quello a causare questa cosa. E appunto. Chiunque e sia... è corretto dire che le divinità nascono dalla credenza delle persone negli dei. Ognuno nasce in un modo diverso. E Maiklon, che mi dici? Anche lei non è un problema? Avevamo una lista delle priorità. Maiklon non era in cima alla lista. Infatti è stata una delle centrali più recenti. Ah sì. Si sa il motivo per cui esistono le centrali? No. Pare per rovinare la vita alle persone. Per migliorarla, tecnicamente. Noi sappiamo che servono a imprigionare gli avatar. Esatto. Il mondo intorno a voi si schiarisce, rivelando una bella giornata di sole. Ho creato le centrali dando tutto quello che avevo per salvare il mondo. Da cosa? Dagli avatar. Era questione di anni prima che lo distruggessero. Senza le centrali saremmo morti tutti. Le centrali stanno facendo del serio male all'ambiente. Cioè, mi sorride a dire una cosa del genere. Ma ci sono delle variazioni. Il mana contamina l'ambiente circostante, contamina le persone e tipo si gira verso Nibel. Ha migliorato le aspettative di vita, certo, ha reso la medicina più accessibile, però ci sono ancora tante incognite. No, non è quello di cui sto parlando. Avete ancora un mondo, anche se inquinato, anche se maledetto. L'alternativa era non averlo. Quindi sarebbero prigioni? Se così lo vuoi chiamare. ma il mondo prima delle centrali è durato per migliaia di anni. Ed era arrivato. Non mi pare. Nella tua opinione. Perché era arrivato alla fine? Nel senso, c'era qualcosa di pendente? Gli Avatar avevano raggiunto il punto in cui per sopravvivere dovevano fare patti con gli umani, e gli umani non conoscono limiti, per cui era diventato un ciclo vizioso. In che senso? Un dio ti regala una magia, a te non basta, chiedi una magia più forte, il dio ne crea una più forte, a te non basta, ne chiedi una più forte, il dio ne crea una più forte. Ho capito. Nella mia gioventù ho visto divinità fulminare intere popolazioni in una sola notte. Non potevo accettare che il mondo finisse per colpa della loro avidità. E le centrali sono state la tua migliore idea? Sì. Insieme ai migliori della Solveria abbiamo fatto una votazione democratica e scelto che era l'unica alternativa. Quali erano le altre opzioni sul tavolo? Lasciare che la storia facesse il suo corso, chiedere aiuto ai Nadiri o vietare la magia. Perché l'aiuto dei Nadiri? In che senso, nel senso, come i Nadiri avrebbero potuto aiutare? E i Nadiri sono in grado di consumare la magia. In questo modo avrebbero arginato il problema degli Avatar. Perché non è stato scelto quello? Nessuno di noi si fida di Nadiri. Fidate di più delle strutture di metallo che fanno da gabbie d'oro, che possono aiutare il resto della popolazione con delle monetine o robe del genere. Era questa la vostra idea migliore? Pensavamo che la magia democratica fosse un buon modo per evitare che la gente cercasse di sfaldare il sistema che avevamo creato. Mentre sulle prigioni, il diavolo dei sigilli mi aveva insegnato un metodo per contenerli. Non senza sacrifici, ovviamente. Il fatto che abbiano ceduto significa che qualcuno umano, e non avatar o divinità o altro, ha cercato di contravvenire all'ordine costituito. Vi viene in mente qualcuno? Ci sono tante persone che potrebbero farlo. Ho tentato di regalare un idillio al mondo. È durato abbastanza. Io ho una domanda molto più pratica, in realtà. I Manapenny prendono il loro simbolo, l'essenza che contengono, dagli avatar da cui vengono prodotti, corretto? Non proprio. Il simbolo che imprimiamo sui Manapenny serve solo per motivi di stoccaggio e capire da dove provengono. Se sì, sì, sì, non intendevo l'essenza. Se è il mana, cioè l'energia. L'energia delle relazioni subordinate di ogni avatar convertite in mana utilizzabile dagli umani. Però è un mana che si differisce da ogni Manapenny, perché quelli di Apeira, cioè possiamo fare degli incantesimi particolari che non insegnano nelle scuole, ed è strano perché non ci sono grimori a riguardo. Nibel sa castare questa magia in catatto Veiklon attraverso il Manapenny di Apeira, però non di altri, quindi sono diversi. Avevano teorizzato che sarebbe stato possibile aprire la porta degli avatar. La ritenevo una congettura. Evidentemente si tratta di qualcosa di più reale. un effetto secondario del sistema con cui li rinchiudiamo? In che senso? E nel caso... No, scusami. In che senso aprire? Voi non sapete cosa siano le anime, corretto? No, però sì, a quanto pare questi due se le ciucciano. Sì, ma infatti una domanda che avevo io era su cosa sia esattamente un'anima. Ho capito che è una fonte di energia, diciamo, unica per ogni essere vivente, ma più di così. Un'anima è un errore. Le anime esistono sulla Terra da poco più di 5.000 anni, quando un umano particolarmente virtuoso o maledetto, secondo a chi lo chiedete, fece il primo atto di assoluta blasfemia o il primo atto religioso, portando la magia nel nostro mondo. La sua è la prima anima. L'anima non è che un buco nel tessuto dell'universo. La situazione in cui vi siete trovati finora si sfalda e vi ritrovate in piedi davanti a un cadavere mentre lieto consuma l'anima in questione. E la sessione la chiude. No!